quella croce l'agnello salì. Su quella croce Gesù Cristo morì. Per quella croce giustizia e pietà. Con quella croce il mio cielo si aprì. Su quella croce l'amore trionfò. E il mio peccato Gesù Cristo pagò. Su quella croce al mio posto morì. Il Re di gloria, il Cristo Gesù. Io so che gloria ed onore di che grande maestà appartengono a te, Gesù, perché con grande potenza l'unto di Dio, Gesù, ha vinto per me, ha vinto per te, su quella croce. Quella croce l'agnello salì, su quella croce Gesù Cristo morì, per quella croce giustizia e pietà, con quella croce il mio cielo si aprì, su quella croce l'amore trionfò. E il mio peccato Gesù Cristo pagò. Su quella croce al mio posto morì. Il Re di gloria, il Cristo Gesù. Io so che gloria ed onore e che grande maestà appartengono a te, Gesù, perché con grande potenza l'unto di Dio, Gesù, ha vinto per me, ha vinto per te. Io so che gloria ed onore e che grande maestà appartengono a te. Su quella croce.